Questo programma è presentato da Florian Cine TV e Radio Città Fujiko 103.1 FM con il patrocinio del Comune di Bologna e di Bologna UNESCO City of Music e con la gentile sponsorizzazione di Librerie Coop. Chi legge ha un punto in più. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko da Valeria Lopa. Siamo pronti per partire con la nuova puntata di The Show Must Go On, con degli ospiti giovanissimi e straordinariamente bravi. Si sono riuniti per dare vita a un viaggio discografico particolarmente interessante, che prende il nome di Lotus, album che ascolteremo oggi ai microfoni di Florian Cine TV. La cantautrice jazz Gaia Banfi ha dato vita a questo fiore di loto tutto in musica insieme al produttore Christopher Dragone e in questa occasione sono accompagnati dai musicisti Giovanni Tamburini e Oscar Martin Del Rio. Sono qui con noi a The Show Must Go On Gaia, Christopher, Giovanni e Oscar. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao a tutti. Oggi siete qui per parlare del vostro primo viaggio insieme, Lotus, album uscito l'anno scorso, quindi pochissimo tempo fa. Gaia, descrivi l'album come un mix di sonorità morbide e avvolgenti, come se fossero un abbraccio, ma ricercate e improntate sullo stile jazz. Quindi ti chiedo, quanto è stato importante il tuo percorso di studi accademico per la realizzazione di questo progetto? Tanto, troppo, l'ha condizionato. Perché? No, nel senso, in senso buono, ovviamente. E tu, Christian, per quanto ti riguarda, prima di conoscere Gaia, hai viaggiato nel mondo della beatbox e dell'hip hop per parecchi anni. Ti chiedo quanto queste influenze passate hanno inciso nel tuo percorso musicale attuale. Tantissimo, cioè in generale col fatto che vengo dal beatbox prima ancora di arrivare alla musica in generale, sta roba qua mi ha completamente fatto sì che io fossi super focalizzato sul ritmo. Il ritmo, il groove è la prima cosa, per cui quando io ho sentito Gaia per la prima volta, che è una cantante che sa stare sul tempo, mi è esploso il cervello, perché la cantante media italiana non sa stare sul tempo, neanche per sbaglio, proprio non ce l'ha, cioè soprattutto freccia avvelenata verso il pop italiano, nel pop italiano non c'è groove, i cantanti non sanno stare sul tempo. Il primo brano che ci canterai, Gaia, si intitola Legno. E ho trovato molto curioso il titolo che avete voluto assegnare al brano stesso. Questo perché, come tu stessa hai affermato, è un titolo che non ha un significato di per sé. Ma questa parola racchiude al suo interno un viaggio importante, quello che si fa per ammettere i propri sentimenti senza avere paura di farlo. Ti va di dirci com'è nato questo brano e di descriverci qualcosina in più? Allora, bellissima domanda questa sul titolo. Sì. Comunque, Legno è stata la primissima canzone che io e Chris abbiamo fatto in studio da lui. E, insieme a Luzzi, che salutiamo. Sì, insieme a Luzzi. Ciao Luzzi. Ti vogliamo bene. niente, praticamente Chris stava producendo il suo primissimo EP con altre tre cantanti e lui mi aveva chiamato per aveva fatto questo beat con questo Luzzi. Pezzo con Luzzi e mi ha detto perché non ci fai qualcosa, ci conoscevamo tipo pochissimo e c'eravamo non ci appena conoscevamo, sì, cioè era proprio zero di zero e niente, sono andata in studio da lui e abbiamo fatto questo pezzo e io le ho mandato la produzione e lei il giorno dopo me la rimanda con già la voce registrata a casa sua per cavoli suoi, quindi non registrata per bene, però c'era già tutto il testo con tutte le melodie, tutto quanto. E tipo, what? Tre giorni dopo è venuto in studio, che erano le 10 di mattina, con le righe del cuscino. Va a registrare, buona la prima, ciao a tutti, io e te lavoreremo insieme. Pazzesco. E vabbè, cioè due parole giusto sulla canzone, parla di un momento particolare della mia vita che è stata una rottura semplicemente con un mio ex ragazzo e niente, questa canzone è capitata a pennello Però sì, cioè, non è questa canzone non descrive tanto quel momento mio particolare, ma quando ci penso è una canzone che mi ricorda tantissimo il momento in cui ci siamo conosciuti io e lui, in cui abbiamo avviato questo viaggio insieme, tra l'altro, dove si è anche introdotto Joe. Perché Joe ha fatto, cioè, la parte finale della canzone, ascoltata poi sul suo disco, è proprio dedicata a Joe. Hai rubato la scena, ma in modo assurdo, cioè, sì, incredibile. Quindi sì, cioè, questa canzone racchiude un po', diciamo, il nostro incontro. Ascoltiamola subito allora, Legno, qui su Radio Città Fujiko. Siamo due corpi nella stessa stanza. Quanto conta ora questa storia? Spogliati dalle nostre avidità. E a rivelar parole non c'è mai stata la tensione. Per essere in due ti serve la mia metà. Ci sono immagini impresse nella mente. A volte si è un po' distorte, ma essere sconosciuti non vi fa. È facile ripetersi che non ci sono limiti, se poi decidi tu come si fa. Tu guardami negli occhi, se il buio ora nasconde i nostri pensieri. Guarda dove siamo finiti, hai paura di me, cose che non mi hai detto mai. Hey. Saluta da bebe. Ad essere così diversi si rischia sempre un po' di perdersi. Cercare di aggiustare le cose senza sapere dove vuoi andare. E non è facile accorgersi che non basta essere noi. Abbiamo appena ascoltato Legno di Gaia Banfi. Il prossimo brano, A Tempo, tratta sempre di un viaggio di ammissione che, però, a differenza di quello che abbiamo appena fatto con Legno, tratta di una missione a ostacoli un po' più schietta, in quanto, dopo la sofferenza, viene rivendicata la propria voglia di libertà. Per curiosità, Gaia, cosa ti ha spinto a scrivere queste parole? Lo stesso ragazzo di prima. Sì, esattamente. Shout out tu, cuori spezzati che fanno scrivere tante belle sì, musiche. Sì, sì, sì. E lì è stato proprio il momento in cui ho detto, cioè, ciao, io adesso vivo un po'... Perché è stata una relazione che mi ha un po'... detonato. Sì, come tutti gli adolescenti, stai insieme con una persona da tanto tempo... E dopo un po' non riesci a respirare la tua aria, no? Perché è estremamente influenzata da un'altra persona. È stato il mio caso e quella canzone, tra l'altro, lo fa in modo, lo racconta in modo molto groovoso. Cioè questo riff qua è molto tipo... sono io, sto uscendo da, sto cercando il mio spazio, la mia libertà, che viene tra l'altro rivelata, questa ricerca viene rivelata soltanto alla fine della canzone. Riprendiamoci il proprio spazio, facciamoci spazio, però ringraziamolo questo ex se questo è il risultato. Gaia Banfi e Dragone con A Tempo. Scorre freddo, il tempo è diverso. Io che ricordo domani non è più lo stesso. Forse ti perdo, vederti un momento. Io che ricordo di amarti più spesso. Concedimi di starti lontano. Seguimi se trovi il coraggio. Ci credo, no, ora no. Parlami di quanto io ti manco in direzione opposta, controvento. Seguimi se trovi il coraggio. Ci credo, no, ora no. Io che ricordo domani non è più lo stesso. Tu cercami ancora, anche se mi fa male. Io che ricordo di amarti più spesso. Non cedimi di starti lontano. Ora non mi chiedere. Vivere la mia, spiegami qual è il nostro verso in direzione giusta. Papi a tempo, seguimi se trovi il coraggio. Ci credo, no, ora no. Parlami di quanto io ti manco in direzione opposta, controvento. Seguimi se trovi il coraggio. Ci credo, no, ora no. Thank you. pancia, dimmi di starti lontano. Ora non mi chiedere perché, non inventare colpe che solo il cuore sa. Vivere la mia, ehi, vivere la mia, vivere la mia libertà. Abbiamo appena ascoltato A Tempo qui su Radio Città Fujiko. La prossima canzone che ci canterete si intitola La misura del mondo. Esatto, allora ascoltiamola. Accostarci, ascoltarsi per essere eroi. Ci servono le leggi per provare emozioni, ma vibrare è quasi diventato un rumore. Le parole ci costringono a dire di noi. Se stare in silenzio e chiedere un disturbo, aggrapparsi ai confini di sicurezza, la misura del mondo. Precipitiamo giù, siamo maschere celebri, anime fragili. C'è uno spettacolo alle mie spalle. Vedo solo la fine, vedo solo la fine. E siamo maschere celebri, anime instabili. C'è una guerra alle mie spalle. Prendimi le redini, prendimi le redini. Il tempo ritrovato è quello del viaggio. Ogni giorno scopriamo quello che siamo. Il mare, la spinta, le onde, il tuo volto che sia verso l'arco o verso la riva. Salpare dalle tue finite sicurezze, gridare le tue carezze. Teme nosce il più antico gesto dell'essere pienamente vivi, liberamente. Siamo maschere celebri, anime fragili. C'è uno spettacolo alle mie spalle. Vedo solo la fine, solo la fine. E siamo maschere celebri, anime instabili. C'è una guerra alle mie spalle. Prendimi le redini, prendimi le redini. Dimmi come si fa ad alzare la testa e a rovesciare il peso di una vita piena. So L'ultimo pezzo che Gaia ci canterà è sempre tratto da Lotus e si intitola Amore, distorsione. Ti va di anticiparci qualcosa? Sì, allora, questo brano è un po' lo yin e lo yang. Tra l'altro, protagonisti io e Chris, che sfoghiamo, diciamo, la nostra rabbia verso una figura. Sì, una figura che fa parte della nostra vita e che lo farà sempre. Femmina. Basta. Basta. E che, cioè, per quanto riguarda me, ha condizionato tantissimo la mia esistenza. Sì, il mio modo di vivere, cioè la mia crescita. E ho voluto raccontare di questo sentimento, di questa rabbia in questa canzone, con uno scopo però, cioè il nostro obiettivo, infatti il brano si chiama Amore e Distorsione, cioè il nostro obiettivo, il mio obiettivo è quello di non tanto rispondere a rabbia con rabbia, ma all'odio si combatte con amore, cioè il point di questa canzone è sì, cioè avere la consapevolezza che c'è della rabbia che ti fa stare male verso questa persona, ma come reagisco a questa rabbia con l'amore, cioè propongo un abbraccio, infatti ho anche, cioè l'amore e distorsione è anche un po' tra virgolette il simbolo del nostro album o comunque del concetto che abbiamo voluto riportare anche con la copertina, per esempio, dove c'è questo abbraccio nudo. E poi appunto come ultima canzone che abbiamo portato anche al live che abbiamo fatto alla Ba, sempre l'ultimo messaggio che però racchiude tutto. Sì, è un po' la nostra preferita. Sì, perché trasmette, perché sì, Lotus è per noi, per me, è proprio portare questo alle persone, cioè raccontare che si può rispondere sempre, sempre con amore. E io credo che ci stiate riuscendo alla grande nel vostro progetto. Ascoltiamola ai nostri microfoni, Amore, distorsione. Sono parole che dici, cosa urli, ma forse non ti senti. E non ti accorgi che il rumore crea dolore. E c'è confusione se ti parlo di questa mia strana sensazione. La delusione, quando ti guardo così, fammi vedere che da un errore si impara a capire. Ora non c'è niente che i tuoi occhi possano afferrare. Potrei rivelarti le mie lacrime se vuoi. C'è un posto così grande nel mio cuore per te, ma tu sei pronta ad ascoltare. All'odio si combatte con amore. Rispetto, ma so che se parlo sopra un palco tu mi ascolti in silenzio. Cazzo, voglio vita, sono stanco. So che passi le notti in bianco aspettando un segno dall'alto che non arriva, quindi odio tanto. So di essere inerte, le mani legate. Navigo tra i fiumi delle solite stronzate. Ripeto, non sei giovane, io dico sono umano. Se una persona soffre vuole stringerti la mano. Se non sono riuscito mai a dire quel che penso, e se anche ci riuscissi dopo non avrebbe senso. Se non posso cambiarti e farti diventare grande, almeno posso urlare a squarciagola che sto male, perché sto da farti male. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui con noi a The Show Must Go On e per averci fatto ascoltare alcuni brani tratti dall'album Lotus. Speriamo di riascoltarvi presto, magari dal vivo. Anche noi ti ringraziamo tanto. Grazie mille. Grazie. Grazie di averci ospitato. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Un saluto anche ai nostri radioascoltatori e ci risentiamo giovedì prossimo sempre alle 16.30 qui su Radio Città Fujiko con The Show Must Go On. Nuovi artisti, nuove storie, nuove emozioni. Questo programma è stato presentato da Florian Cine TV e Radio Città Fujiko 103.1 FM con il patrocinio del Comune di Bologna e di Bologna UNESCO City of Music e con la gentile sponsorizzazione di Librerie Coop. Chi legge ha un punto in più.